vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di a sedere. Puntata numero 22 di Ratto di Campagna Topolino di Città. Questo programma di Radio Big World che dai e via, non me lo fate ripetere, è sempre la solita storia. Insomma, cerchiamo di sgrezzarci da questa provincialità che in qualche modo ci soffoca. Andiamo, questi modi di fare ormai da villani, tipo il vestito della domenica, tipo alla conferenza del famoso professore che si alza la mano per fare una domanda, in realtà si fa una affermazione che a quegli altri non gliene frega nulla, travestita da domanda. Ragazzi, non si fa più, alla Luis vi butterebbero fuori se solo ci provate. E allora cerchiamo di entrare in questo nuovo modo di pensare, un modo di pensare che va velocissimo e non è un modo di dire, dice no, sì, il tempo passa. Qui, ragazzi, l'anno scorso sono stati raccolti più dati che nell'intera storia dell'umanità. Che cosa succederà l'anno prossimo? Il potere computazionale aumenta di giorno in giorno letteralmente e qui noi cerchiamo di rincorrere, che cosa, una pecora, insomma, andiamo, ormai delle stagioni chi se ne frega, la coppa c'ha le ciliegie tutto l'anno. Insomma, per farla breve, ci rivolgiamo a coloro che ascoltano Radio Big World, a coloro che sono provinciali, ai provinciali che ascoltano Radio Big World, perché se non fossero provinciali o non ascoltassero Radio Big World non sentirebbero le nostre parole. Insomma, noi abbiamo una soluzione e la soluzione è la nostra stella del mattino, colei che dalla cupola del Duomo brilla un po' come la Madunina e ognuno c'ha le sue. E per presentarvela, ma sì, la conoscete, ma insomma, è colei che mentre a noi ancora ci educavano mettendoci in ginocchio sui ceci e dandoci le bacchettate sulle mani, con lei già adottavano i metodi del dottor Spock, Laura! Ciao Giorgio, questa premessa è stata particolarmente contorta, eh? Non so, forse oggi c'è una giornata un po' particolare, che mi dici? Mamma mia, c'avevo un olivetto che me l'ero coltivato, i ragnetti rossi si sono mangiati tutti i fiori e non farà le olive, pertanto sono chissà un po' alterato da questi eventi di campagna. Ma si dovrebbe tornare bambini, che dici, per non avere certi pensieri? Ah, senz'altro, senz'altro, da bambini non me ne fregava assolutamente niente delle olive e l'olio più o meno già secondo me veniva in una boccia al supermercato o alla bottega. Ma a Firenze, ossia, oggi mi piacerebbe parlare di essere bambini a Firenze, che non sarà uguale a esserlo in provincia, poi bambini fisicamente sì, ma insomma. E uno dei temi più ricorrenti oggi per quanto riguarda tanto chi è proprietario di un locale, che sia un ristorante, un bar o un'altra struttura, tanto dei clienti, è quella di: ci sarà un'area attrezzata per i bambini? In Romagna hanno fatto di questo soggetto un bel business, tant'è che la Romagna è attrezzatissima per i figli, ma non solo, per esempio il Trentino, e non a caso si parla di due località, due regioni geografiche che sono al top del turismo in Italia. Anche a Firenze c'è tanto turismo, i locali a Firenze sono attrezzati per i bambini? Poco, poco, qui c'è molto da migliorare. Allora, chi come me c'ha i nonni lascia il bambino a casa, se vuole uscire sta molto meglio. Soprattutto se è una bambina come la mia, un po' difficile da portare in giro. Allora, quando avevo fatto per esempio il corso preparto, l'ostetrica era veramente indignata dal fatto che non ci fossero aree cambio, aree allattamento in quasi praticamente da nessuna parte, e voleva proprio fare una petizione, una raccolta firme, perché effettivamente non siamo molto, molto attrezzati. Quindi niente, quando tu esci con un bambino piccolo devi portarti dietro di tutto, anche un fasciatoio portatile. Poi vabbè, non so tu a quale età ti riferivi, però già ecco, se il bambino è un po' cresciusello, allora vabbè, basta poco per farlo divertire in giro, basta non so, un piccolo spazio giochi in ristorante, in pizzeria, te lo trovi. Poi ecco, se fai come i genitori più pigri, si portano dietro il tablet, tra cellulare, glielo mettono sotto il naso, allora la serata è risolta. Però insomma, prima di arrivare a quello si dovrebbero studiare altre soluzioni. Quindi i tablet in qualche modo sostituiranno le aree gioco da il posto dove ci sono le costruzioni e le macchinine, probabilmente del figlio del proprietario del ristorante, a il parchetto fuori con lo scivolino e l'altalena. Ma speriamo di no che non lo sostituiscano. Io sono sempre per tenere i bambini fuori all'aria aperta, e per questo forse io ti dico, da cittadina convinta, che però insomma l'infanzia è una bella età da vivere in paese. Insomma, vedi queste strade dove non passano mai macchine, dove ancora giocano i bimbi indisturbati con la palla. Io mi ricordo, andavo dalla mia nonna in paese e giocavo con due o tre bambini lì della via. La mamma di una di queste aveva il compito di urlare, di annunciare l'arrivo di una macchina, si metteva all'inizio della strada, urlava macchina, allora tutti noi ci spostavamo sul marciapiede, e questo succedeva una volta all'ora, quindi insomma per il resto andavamo indisturbati. Però ecco, anche il mio condominio cittadino, avendo tanti cortili, tanti spazi fuori, è stato veramente un ottimo luogo di giochi dove neppure una macchina all'ora passava. Quindi dico, o campagna o città, chi può, insomma, lasci i bambini fuori, sono i momenti migliori. Ma Laura, te oggi che vedi tanto Firenze come il paese dei tuoi nonni, ma li vedi ancora i bambini giocare nei cortili, esatto, o per strada? Esatto, è quello, che a questo punto meglio il cortile del condominio, che è veramente uno spazio che ancora resiste, perché anche per le strade dei paesi dove quando ero piccola io si giocava, adesso non vedi più neanche un bambino, un po' perché effettivamente i tempi sono cambiati e c'è un po' più timore di lasciare i bambini così liberi di girellare per il paese, e un po' perché appunto chissà, questi tablet, questi computer, la televisione hanno un po' risucchiato i ragazzini. Che tristezza però, eh? Abbastanza, anche perché lo stare fuori era un po' continuare la socializzazione che era cominciata a scuola. Abbiamo intervistato un ex professore delle superiori e lui sosteneva che ormai la scuola così com'è è obsoleta, però quello che ancora funziona è che è un posto dove si socializza con delle regole. Lo stesso avveniva nei cortili o nelle strade, qui da noi i cortili o le strade ormai sono deserti. D'altra parte sono invece piuttosto gettonati i compleanni come momento di socializzazione, e i compleanni si fanno ormai nei posti più creativi, cioè addirittura un posto che ha dei gonfiabili dentro e quello fa solo compleanni per bambini, oppure la cosa più atroce dal mio punto di vista è che si vanno a fare i compleanni per esempio al McDonald's. Mamma mia, incredibile. Allora, a Firenze chissà quanti posti e quante occasioni ci sono per fare compleanni fighi per bambini. Dove si fanno? Allora, io le facevo in casa e avevo poi un sacco di compagni di classe con super mega ville, con tanto di giardino. E quindi niente, fuori all'aria aperta si scorrazzava, addirittura si facevano queste cacce al tesoro in mezzo ai campi, no, era bellissimo. Che tristezza oggi quelli che invece vanno al McDonald's, però forse è comodo, non devi allestire la casa, non rischi che ti vengano distrutti i soprammobili e te la cavi così. Con pochi soldi. Che dire, no, forse no, soldi servono anche di più, però la fatica, cioè, ma vuoi mettere, ecco, la comodità di delegare, ma senti, la mia bambina ancora è piccola, fra qualche anno, quando organizzerò i compleanni, io tenterò di mantenere le tradizioni più antiche, quindi in casa, giochi fatti in casa, non lo so, il McDonald's, vabbè, mai dire mai, magari un anno sarò stanca, non organizzerò niente, manderò tutti al fast food. Poi vedo su internet, ci sono società di animatori, spazi giochi dedicati, insomma c'è un po' di tutto di più oggi. Si torna un po' al discorso che forse i bimbi d'oggi hanno tutto, ma sono meno stimolati di noi, meno fortunati forse. Quindi in città, molto più che in provincia, ovvio, noi alla fine viviamo di luce riflessa, va di modissima questo fatto di avere compleanni organizzati in posti dedicati, con attività dedicate, piuttosto che dare la via ai bambini che corrono 3 o 4 ore e poi ritornano sudati, intinti, è il momento di tornare a casa. Confermi questa tendenza? Sì, confermo. E se non si gioca più nei cortili, se per la strada figuriamoci, e se anche nelle case non si fa più attività di gruppo, rimane ancora la vecchia tradizione di andare a casa degli amici, per esempio di scuola o di altra attività? Sì, quello sì. Da poi stanno, generalmente se uno sceglie la stessa scuola, sta anche nella stessa zona della città, pertanto è anche comodo, ma adesso, a differenza di quando eravamo piccoli, noi ci sono i gruppi WhatsApp, capito? E lì l'organizzazione può dare il meglio di sé, il gruppo WhatsApp delle mamme della seconda B può dare il meglio di sé, così come può dare seri problemi, può dare veramente anche il peggio del peggio. Vedremo, io ancora, ecco, l'ho detto, c'ho la bimba piccola, non lo so cosa mi aspetta, sono un Laura, po' terrorizzata. Anche nella tua esperienza, ma ti è capitato, ne so, che te stavi a Rovezzano e avevi l'amichetta che stava a Novoli e quindi ci avevano da portarti lì e da riportarti a casa? Avviene questo? Oppure di solito le amicizie sono più o meno nel quartiere? Quindi... Nel quartiere, perché quando sono piccoli i bambini hanno gli amici di scuola, hanno gli amici vicini di casa. Fai conto che nei nostri quartieri sono tanti piccoli paesini e insomma rimani circoscritto lì, a meno che uno non abbia i nonni che stanno in un altro quartiere, allora c'ha due cerchie di amici e insomma raddoppiano un po' i contatti, però generalmente funziona così e poi è tutto più comodo, no? Quando è tutto vicino. E siccome è una questione di quartiere, i differenti quartieri di Firenze hanno dei parchi giochi o dei posti particolarmente famosi tra i bambini per ritrovarsi dopo la scuola? Sì, ognuno ha il suo, niente di che, però qualche altalena, qualche scivolo lo trovo un po' dappertutto. E lì c'è la masnada dei bambini, sai, da noi ce n'è uno, quindi si va lì per forza, però probabilmente a Firenze ce n'è più di uno. Per andare a piedi, da casa vai a piedi al parco giochi più vicino. E dopo la scuola ormai, insomma, un tempo si tornava a casa, si guardava bim bum bam e si mangiava i biscotti del Mulino Bianco, così ci rintronavano il cervello e ci rendevano obesi. Ma insomma, oggi le cose sono un po' cambiate, nel senso che bim bum bam più o meno c'è 24 ore su 24, i biscotti del Mulino Bianco sono ancora più calorosi, ma c'è anche una pletora di attività incredibili per i bambini, da quelle più creative, quindi il corso di origami, il corso di taglio e cucito, il corso di scultura con la mofa del Mugnone, ma c'è anche poi un trifello di sport da fare. Ce l'hai già spiegato che a Firenze, insomma, la disponibilità di attività sportiva è praticamente inesauribile. Insomma, se ci avete pure i guelfi, come si chiamano, che fanno il football americano, ma che siamo in tennis, il rugby subacqueo, te l'ho detto, non manca nulla. Se qui da noi ce n'è tante, ci sono associazioni, organizzazioni, bla bla bla, quante ce n'è a Firenze? Di che cosa? Della disponibilità di attività da far fare ai bambini dopo. Quindi oltre lo sport, allo sport te l'ho già detto, ce n'è di tutto di più da noi, carissimo. Se le giornate fossero di 48 ore, i bambini sarebbero impegnati. Allora, te pensa, Io facevo la babysitter a una bambina che il cui padre era tedesco, quindi lei veniva mandata al circolo svizzero, dove facevano attività in tedesco, però con il rigore svizzero, e quindi questa povera bambina era un giorno alla settimana inquadratissima. Poi faceva pure piscina, perché cioè, alla fine piscina è uno sport, il nuoto lo devono fare tutti, no? Insomma, come dicono le nonne, il nuoto ti forma, ti fa drizzare le spalle, quindi cioè, come non fare nuoto? Solo che 99 volte su 100 il nuoto annoia tantissimo questi bambini. Quindi non vuoi fargli fare uno sport un po' più divertente? E allora ti dicono, ma scherzi, lo sport di squadra è pallavolo, basket, fallo, impari a socializzare. Poi, ma oggigiorno senza l'inglese non va da nessuna parte, e allora corsi l'inglese, cioè, come farne a meno? E poi vai anche al catechismo, perché insomma deve fare almeno la comunione, e in più vuoi anche, insomma, fare qualche attività tipo teatro che stimola la creatività. Chi più ne ha più ne mette, guarda, ne ho sentite di tutti i colori. Cioè, infatti, Laura, fammi capire, io questa cosa l'ho sentita nei film americani, i newyorkesi che parlavano dei loro figli, dice sì, già lo mando dal maestro di yoga, già lo mando di qui, già fa il karate. Questa cosa è anche a Firenze, cioè che sì, un bambino ha un'agenda piena, strapiena. Pienissima, pienissima. Tanti pediatri, medici, psicologi, non lo so, infatti rivendicano il diritto alla noia del bambino. Insomma, tutti i sorti non li hanno. E questi poveri figli, insomma, io venivo parcheggiata 3 mesi al mare, ero contentissima per l'estate, non sentivo la mancanza dell'inglese o, non lo so, dello yoga. Ecco, il punto cruciale è quando finiscono le scuole. Chi non ha i nonni che portano i figli al mare, o chi non ha i genitori insegnanti, come abbiamo avuto io e te, carissimo, ci potevano tenere al mare 3 mesi. È vero, è vero, è vero. Quando finisce la scuola è un dramma nei tempi di oggi, dove siamo occupatissimi e, insomma, parliamoci chiaro, non si sa dove parcheggiare i figli. Esatto. E anche qui una pletora di organizzazioni, associazioni, movimenti che fanno i centri estivi. Centri estivi, parola magica per tutti coloro che appunto non hanno la fortuna che avevamo noi, figli di insegnanti. Allora, ci sono quelli organizzati dalla parrocchia, ci sono quelli organizzati dal comune, ci sono quelli organizzati tipo dalla club, che è la palestra più in di Firenze, e costano un visibilio, cioè una cosa allucinante. Però la club ha pure la piscina, quindi, perché poi il centro estivo deve fronteggiare il problema numero uno di Firenze, cioè l'afa, il caldo. Allora, devi sapere che c'è un'ordinanza del comune che vieta proprio le attività all'aria aperta quando la temperatura o la temperatura percepita supera un tot di gradi. Ora esattamente, davvero. E quindi il dilemma numero uno è mandarli a un centro estivo carissimo dove c'è l'aria condizionata, oppure mandarli a un centro estivo qualunque e sperare che la temperatura sia decente. Perché poi non li puoi portare fuori, no? Questa ordinanza dice non li puoi portare fuori. Però quando è caldo caldo, forse si starebbe meglio fuori all'ombra di un albero che in una stanza chiusa, capito? Poi pensa, magari sono 20 figlioli con, non so, in una stanza di 20 metri quadri, aiuto. Quindi è veramente, secondo me, un problema. Allora, viva, cioè, bisognerebbe fare tutti gli insegnanti, avere 3 mesi di ferie l'anno e andarsene al mare. Però, ecco, per chi non può la prolifera, no, centri estivi a Firenze ce n'è veramente di ogni tipo. E di ogni tasca, immagino. E di ogni tasca, appunto, a seconda di quanto vuoi far godere il tuo figlio, soprattutto in base al clima, appunto, che deve sopportare. Poi, se ti vuoi far fare qualcosa di culturale, fa per esempio teatro in inglese, è un centro estivo organizzato da un circolino, cioè non lo diresti, ma un circolino quasi scaccino, invece ti organizza il corso di teatro in inglese. Queste, insomma, sono le sorprese anche da chi non te l'aspetta. Quindi, insomma, anche magari gli svizzeri faranno il loro centro estivo magari in tedesco con le bacchettate sulle mani. Poi la club che appunto è la palestra più in Firenze, che è carissima, però magari, visto che c'ha una super piscina e super stanze giochi con l'aria condizionata, te li può anche parcheggiare lì, figlioli, tanto insomma il grosso è fatto dall'ambiente. E allora no, veramente puoi scegliere di tutto, di più. La scuola stessa magari fino a fine giugno rimane aperta e di forse paghi poco, così è, dai, in qualche modo uno a Firenze sopravvive anche all'estate. Allora, con tutta questa scelta innumerevole di attività da far fare, sia durante l'anno, sia durante l'estate, dopo scuola, che di notte o addirittura la mattina prima di andare a scuola, i genitori o i bambini come fanno a scegliere? Come fanno a sapere che c'è quel tipo di attività e proprio quell'attività gli piacerebbe fare? Gruppi WhatsApp, Facebook, il vecchio passaparola che si è evoluto con internet. D'accordo. E sempre facendosi i conti in tasca e via. Beh, fiorentinamente, ma insomma i gruppi delle mamme ci sono ancora. Cioè ci sono ancora. E c'hanno nuovi strumenti, assai utili ma assai pericolosi. Senz'altro. In buona sostanza, Laura, quali secondo te sono i pro e i contro di essere bambino a Firenze? Il contro è che tu ti puoi trovare solo, perché gli altri vanno tutti al mare e se te sei da solo a Firenze non so come, insomma, come te la cavi. Mentre invece al paese c'è sempre qualche bambino in più, forse perché si sta più freschi generalmente o perché qualche bambino di città va in vacanza in campagna. Sì, è anche così, sì. Veniva in campagna dove andavamo in così in villeggiatura d'estate un ragazzo per l'appunto di Firenze, per cui lui trovava gli amici al paesello e io trovavo l'amico che veniva dalla città. Esatto. E quali sono i pro? I pro che qui a Firenze puoi fare di tutto. Se te, bambino prodigio a 4 anni, puoi già fare un corso di Kung Fu, però con la spiegazione in inglese e con l'insegnante svizzero, con una parte anche subacquea, ecco, insomma, a Firenze puoi soddisfare tutte le tue esigenze. Quindi chissà quanti Mozart sono nati in provincia e siccome non avevano i centri estivi della Palestra Club, purtroppo hanno finito per fare gli operai credendo di essere dei falliti. Ma sarà così, senz'altro, qui da noi i pro e i contro, non lo so, i pro le verdure dell'orto, ma ormai ci si spruzza sopra la roba perché c'è dei parassiti che sono resistenti a qualsiasi cosa, l'aria non ne parliamo, qui le industrie distruggano lo iodio, c'è una quantità di malattie alla tiroide che ma no è... dai, no, non mi distruggere questo mito della campagna, per favore. In più, insomma, però poi non ve li mandano più i bambini cittadini a respirare l'aria buona, non le dire ste cose. Ma i bambini cittadini non ce li mandano, in compenso ci mandano i rifiuti, tanto che la discarica c'è qui, ma vabbè, sapranno quello che fanno, me l'auguro. Laura, grazie della tua disponibilità a averci rivelato questi segreti solo per fiorentini. Prego. Naturalmente, insomma, ora insomma già ci interessiamo dei fuochi, insomma, dove parcheggiare il Tucano per andare a vedere i fuochi sul Monte Morello per tirare i sassi nel Mugnone, insomma cercheremo di fare i fiorentini anche noi e... quest'anno poi casca di domenica, per noi è un giorno di ferie perso, un giorno di festa perso, però per voi invece è una bella occasione per venire a festeggiare San Giovanni. Ricordatevi naturalmente che quando vedrete i fuochi, dite, erano meglio quelli dell'anno scorso. Vi salutiamo, salutiamo gli ascoltatori di Radio Big World, grazie e alla prossima fiorentinata. Ole, oh, bucaiolo! Vai.